Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il referendum che si è tenuto in Svizzera non riguarda la costruzione delle moschee, che ci sono e possono essere costruite né più né meno come prima, ma il divieto di costruire i minareti, che da quelle parti, e non a torto, vengono visti come simbolo politico dell'islamismo. E io sono d'accordo. Sono cattolico, non praticante, ma trovo stupido e controproducente che i nostri pasciuti ministri di Dio, vescovi, cardinali, eccetera, stigmatizzino questa decisione presa da un popolo sovrano e non vadano a guardare cosa accade nei paesi islamici, dove la religione cristiana in generale e cattolica in particolare è mal tollerata, vessata o, di fatto, proibita nella maggior parte dei principali stati islamici. Nei paesi come l'Egitto, dove è tollerata, i cristiani sono costretti a mostrare un particolare segno sulla mano per poter entrare in chiesa ed evitare incursioni islamiche. Riguardo alla proposta di mettere la croce nella bandiera italiana, se si vuole la croce si prenda il jack nella marina mercantile, che di croci ne ha ben tre, quelle di tre delle quattro repubbliche marinare. E infine, perché non vige la reciprocità? Per ogni minareto si dovrebbe costruire un campanile con tanto di campane. Col cavolo, che verrebbero concessi. Osvaldo. Quanti campanili cattolici svettano in Arabia Saudita? Voglio lanciare una sottoscrizione per costruire, per esempio a Teheran, una chiesa cattolica della stazza della Moschea di Roma. Mi aiutate a pubblicizzare l'iniziativa? Filippo. Cara Radio 24, alcuni leghisti hanno espresso il parere che sul nostro vessillo nazionale venga apposta ora anche una croce. Non si capisce bene se una croce qualsivoglia oppure un crocifisso. E il ministro Frattini sarebbe favorevole a questa proposta. Tutto questo all'indomani del referendum tenutosi nella vicina Confederazione Elvetica, che con lieve maggioranza si è espresso contrario alla costruzione di nuove moschee nel loro paese. Io sono ateo, ma in nome della libertà di pensiero, di espressione, di opinione, di culto, eccetera, di cui l'Occidente giustamente si vanta, come fanno i nostri politici a tirar fuori queste cavolate, con tutti i problemi che tengono in permanente emergenza questa povera Italia? Quanto a nuove moschee, chi le vuole se le paghi, senza chiedere soldi a chi non ne è interessato? Angelo da Genova. Nel fuori onda delle parole di Fini, che si vuol far apparire come uno scoop, mi sembra non ci sia nulla di già ascoltato e di già dichiarato in esternazioni pubbliche, che già avevano suscitato polemiche e chiarimenti. L'unica differenza è il tono sommesso e confidenziale che conferisce a quelle parole un alone quasi di pettegolezzo. E si sa quanto sia spasmodica oggi la ricerca del pettegolezzo, che ormai è quasi l'anima delle notizie che ci vengono trasmesse. Credo si voglia acuire la frattura nel centrodestra, anche con frasi che non rappresentano più una novità. La cosa che invece mi ha colpito è il completo disinteresse e la mancanza di educazione nei confronti di chi stava parlando, che non è stato preso minimamente in considerazione e che sarà stato falsamente applaudito alla fine del discorso, di cui forse non hanno capito neppure l'argomento. Giulia. Direttore, buongiorno. Non riesco a capire che cosa attragga Berlusconi verso Gheddafi, Lukashenko e, se vogliamo, lo stesso Putin. Non capisco soprattutto come tutti noi si faccia finta di niente, di fronte a cose di cui invece ci si dovrebbe vergognare e allo stesso tempo avere paura. Prendiamo in esame la visita in Bielorussia. Ma avete sentito le motivazioni? Motivi economici. Ma scherziamo. Quanto è il PIL della Bielorussia? Credo il 5% circa di quello italiano, quanto quello delle Marche. E noi siamo nella classifica il nono partner commerciale. Motivi politici? Ma lo sanno a Palazzo Chigi che Lukashenko è un dittatore che reprime con forza ogni minimo dissenso e che ha nel suo paese ancora in vigore la pena di morte? Il Dipartimento di Stato americano lo definisce l'ultimo dittatore d'Europa e noi siamo lì a tesserne le lodi. Lukashenko è molto amato dalla popolazione in base al voto? Gli osservatori OCSE hanno certificato che è stato rieletto nel 2006 con pesanti brogli, dopo aver modificato la Costituzione per permettersi la rielezione con un referendum altrettanto fasullo e aver ripulito il Parlamento di tutta l'opposizione. Affermare una cosa del genere credo sia anche offensivo nei confronti della popolazione bielorussa. Però in compenso i bielorussi ci hanno aperto gli archivi del KGB riguardanti i nostri connazionali, militari e non, spariti durante le repressioni degli anni 30 e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma Lukashenko e Putin, per queste cose, vista la loro origine, non dovrebbero invece renderci conto di ciò che accade in altra maniera, invece di darci, per così dire, un contentino che non significa nulla e tantomeno giustifica un viaggio di Stato così enfatizzato? In tutto questo, nessuno che dica niente, tantomeno dell'opposizione. A proposito, ne esiste sempre una. Roberto. Caro direttore, Berlusconi l'anno scorso disse che la crisi non c'era e che si trattava semplicemente di un'invenzione dei giornalisti. Poi disse che, anche se c'era, l'Italia era messa meglio di altri paesi. Infine, giorni fa, ha decretato ufficialmente la fine della crisi, che non c'era. Io ho l'impressione che il Presidente del Consiglio parli a titolo personale perché le statistiche e i sondaggi indicano una realtà diversa da quella da lui prospettata. Infatti gli italiani hanno ridotto la spesa sulle cose non essenziali, hanno ridotto la spesa sulle cose necessarie, mangiano di meno per risparmiare. Il tutto con il tentativo e la speranza di arrivare a fine mese. Le imprese poi non se la passano meglio. Durante tutto questo parlare di crisi, io mi sono chiesto: ma perché i giornalisti non chiedono ai politici tutti perché pure loro non rinunciano a qualche privilegio, visto che la casta di privilegi ne ha tanti? Non si pretende che arrivino a fare dei sacrifici, Dio ce ne scampi, ma almeno qualche rinuncia. E se si abolissero le province? O se si riducesse il numero dei parlamentari? Mi auguro che i giornalisti si impegnino di più per martellare i politici affinché diano qualche pur timido buon esempio di riduzione degli sprechi e della spesa pubblica. Ernesto. Sono un cinquantenne che nel 77 aveva 18 anni e pur avendo militato in autonomia operaia e pur essendo tuttora di sinistra non appartengo in nessun modo ai nostalgici di quel tempo, come la signora che qualche sera fa alla radio affermava che purtroppo i brigatisti hanno perso. Io me li ricordo bene i morti ammazzati tra i ragazzi di 20 anni e non me ne frega di distinguere se avessero o meno la divisa. Un morto di 20 anni è solo un ragazzo morto. Non ne posso più della cultura dell'anti che domina la vita pubblica di questo paese. Anti-berlusconiani e anticomunisti, antifascisti e antimafia, antirazzisti. Possibile che non riusciamo a dare un parere su ciò che viene dalla politica senza prima valutare chi afferma una cosa e non la cosa in se stessa? È tanto difficile dire che il governo Berlusconi, tra tante cose non condivisibili, fa anche cose ottime, come la digitalizzazione della pubblica amministrazione di Brunetta e lo snellimento delle amministrazioni dei piccoli centri di Calderoli. Dire questo per uno di sinistra vuol dire diventare fiancheggiatore di Berlusconi. Mi auguro che venga presto il tempo nel quale potremo dire semplicemente che un'iniziativa politica è giusta o sbagliata in sé e per sé e non in base a chi l'ha presentata. Luigi Caserta. Caro direttore, sono un imprenditore che sta passando la mano alla terza generazione, cercando di trasmettere il principio che sento ancora nella voce di mio padre, quando, entrando io in azienda 42 anni fa, raccomandava di far solo impresa e che, la sera, si deve andare a dormire con la coscienza tranquilla, anche a discapito dell'impresa stessa. Erano tempi in cui la maggioranza della società civile esaltava il principio dei valori etici e della moralità professionale. Ora, di fronte al rinnovarsi degli scandali quotidiani che vanno dalle navi dei veleni, alle bonifiche gonfiate dalle tangenti o, peggio ancora, agli incesti tra politica e 'ndrangheta, mafia e camorra, e tralasciando veline e trans, mi chiedo come si possa assistere a tutto questo e nello stesso tempo resistere alla legittimazione dell'evasione fiscale, realizzabile oggi anche attraverso la recente legge che ha inserito nello scudo fiscale addirittura la depenalizzazione del falso in bilancio. Perché mai la stampa, i giornali, le categorie professionali e i partiti di opposizione non stigmatizzano questo vero scandalo? Possibile che sia solo per superficialità? Comincio a pensare che tutto ciò non sia casuale. Ma allora saremmo proprio alla frutta e forse viene voglia di abbandonare il nostro bel paese. Emanuele. Caro direttore, mi sembra che non solo quello italiano, ma anche gli altri sistemi politici abbiano in questo periodo qualche difficoltà. Soprattutto le democrazie tradizionali e parlamentari non sembrano essere in grado di creare quel senso condiviso dello Stato che dovrebbe essere fondamentale, soprattutto nei momenti difficili. E allora mi è venuta una domanda. Perché non tornare alla monarchia? Esistono casi di paesi nei quali, dopo aver sperimentato il parlamentarismo, hanno fatto tornare re e regine? Antonio. Caro Antonio, in Europa c'è un solo caso in cui il re è tornato sul trono. Si tratta della Spagna, dove dopo il regime franchista la transizione alla democrazia è avvenuta anche grazie alla stabilità politica, resa possibile appunto dal ritorno del re come simbolo dell'unità nazionale. Non è stato però un passaggio dalla democrazia alla monarchia, ma da un totalitarismo, da una dittatura a una monarchia parlamentare e costituzionale. In tutti i paesi, almeno quelli europei, in cui c'è ancora la monarchia, questa ha tuttavia solo compiti di rappresentanza e di garanzia. Per approfondire questi temi è appena uscito il bel libro di Enrica Roddolo, Dio salvi le regine. Ci può trovare la storia delle monarchie contemporanee con tutti i loro personaggi e le storie che hanno riempito le cronache degli ultimi anni, da Lady Diana al principe del Liechtenstein. Un libro che mette le monarchie al posto che spetta loro, quello di essere un richiamo alla tradizione storica e all'identità nazionale. Un segno del passato che sfida continuamente la modernità, ma la storia ha fatto e farà il suo corso e appare del tutto fuori luogo e fuori tempo avere nostalgia del re, dove i re sono diventati dei liberi cittadini. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.